ippocampo. A chi non sa di cosa si tratti, risponderemo che questo è il vero nome di quel grazioso animaletto col corpo allungato che tutti chiamano cavalluccio marino. E proprio questo era il problema. Da quando era nato, Samuele non aveva avuto che un pensiero: diventare un giorno un vero e proprio cavallo, con tanto di criniera, coda e robusti zoccoli sotto quattro potenti zampe. Purtroppo, in effetti, lui, come qualsiasi altro ippocampo, di zampe proprio non ne aveva, ma aveva una coda bellissima che sapeva arricciare in modo molto elegante. Ma sia chiaro che Samuele non aspirava a diventare un cavallo per pura vanità, anzi. Il piccolo Samuele, era il più piccolo di tutto il branco, sentiva di essere inutile e di scarso aiuto per le altre creature del mare nella costa sud della Sicilia tra Sampieri e Scicli, dove abitava. Per questo avrebbe voluto cambiare. A chi posso essere d'aiuto col mio corpo piccolo e fragile? Chi posso trasportare sul mio dorso di cavalluccio? Non certo Zorro e nemmeno i quattro moschettieri. Così si lamentava Samuele, che leggeva libri e fumetti e adorava gli eroi a cavallo. Tu sei una creatura del mare. Anche tu hai la tua utilità, gli rispondeva allora la mamma. Un giorno, mentre si dondolava sopra un'alga vicino alla roccia grande, Samuele vide comparire un enorme granchio, sbattendo le chele in modo minaccioso. Accanto a lui una minuscola stella di mare tremava di paura, non tanto per il timore di essere mangiata, i granchi non si nutrono di stelle marine, quanto perché quel gradasso di un granchio muoveva le sue chele in modo confuso e disordinato, col rischio di ferirla. Stai attenta a come muovi quelle pinze, intervenne subito Samuele. Che cosa vuoi, piccolo ippocampo? Non vedi che questo è il mio territorio? Rispose il granchio, quasi ringhiando e muovendo ancora più minacciosamente le chele. Il mare è di tutti, ribatté Samuele. Le creature giocano o si danno la caccia. Questa è nella nostra natura, ma tutti si rispettano. Sono troppo forte per dover rispettare qualcuno. Un colpo delle mie chele può tagliare in due questa stellina qua, fece il granchio, indicando la stella marina che piangeva terrorizzata. Sei un prepotente! Ecco che cosa sei! Fece la stellina tra i singhiozzi. A quella frase il grande granchio diventò rosso e furibondo e si lanciò addosso alla stellina con le bianche pinze spalancate. Ma Samuele fu più svelto di lui e riuscì ad afferrare la stellina con la sua coda arricciata, staccandola dal fondo sabbioso e trascinandola su, lontano dalla corazza del grosso granchio. Poi la depositò su una liscia roccia molto più in là, dove si appoggiò accanto a lei. Grazie, piccolo cavalluccio. Mi hai salvato da quel prepotente, disse la stellina appena ripreso fiato. Come ti chiami? Mi chiamo Samuele. E ti sarei grato se non mi ricordassi che sono un semplice cavalluccio marino. Io vorrei essere un vero cavallo di terra. Ma perché mai? Rispose stupita la stellina. Perché non sei fiero di quello che sei? Io vorrei poter essere utile a qualcuno. Portare sul mio dorso eroi come Zorro, Lancillotto o i quattro moschettieri e aiutarli nelle loro imprese. Tu sei un cavalluccio marino tanto coraggioso quanto distratto. Non ti sei neanche accorto che sei una creatura meravigliosa, disse la stellina sorridendo. Quanto poi ad essere utile a qualcuno. Oggi mi hai salvato da un granchio prepotente. Non hai bisogno di portare sul dorso nessun eroe, perché l'eroe sei tu. Quelle parole il piccolo Samuele gonfiò il petto d'orgoglio. Dici davvero, piccola stella marina? Certamente, e sono sicura che un giorno qualcuno ti farà un bel ritratto e racconterà la tua storia, come succede ad ogni eroe. Infatti, ancora oggi il piccolo Samuele è il simbolo di un bellissimo villaggio costruito nel mare di Scicli, dove il suo ritratto è presente in ogni angolo. Quanto alla sua storia, ve l'abbiamo appena raccontata, ed è la storia di un piccolo eroe. Non è da tutti salvare una stella.